Italia in controluce. Oggi torniamo a parlare del terremoto in Emilia, anzi per la precisione torniamo a parlare degli strasci che a volte grotteschi di cui stanno facendo le spese le famiglie emiliane che in molti casi hanno visto distrutta la propria casa e che dunque hanno dovuto abbandonarla per vivere altrove, almeno fino a che la loro casa non sarà di nuovo ricostruita o resa di nuovo agibile. Oggi vi raccontiamo una storia molto particolare perché abbiamo scoperto che l'Enel in qualche modo chiede alle famiglie di pagare bollette da seconda casa. In realtà sono persone che non stanno vivendo nella loro casa perché non ce l'hanno più o perché è irrimediabilmente danneggiata. Quindi è questa la storia che vi faremo ascoltare. Parleremo in diretta anche con Fernando Ferrioli, sindaco di Finale Emilia, visto che è proprio nel suo comune che questo problema è particolarmente sentito e che riguarda moltissime famiglie. Qui accanto a me Valentina Furlanetto, che dunque ci dettaglia di cosa stiamo parlando. Valentina. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Come dicevi, una vera e propria beffa per i terremotati dell'Emilia-Romagna, che come sapete stiamo seguendo la situazione della zona dopo il sisma da vari punti di vista. E quello che siamo venuti a conoscenza grazie a delle denunce fatte all'Associazione dei Consumatori è che alcuni di loro hanno avuto delle bollette rincarate perché venivano considerate seconde case degli alloggi dove loro si trovano perché la prima casa, l'abitazione, è danneggiata dal sisma. Questo chiaramente ha creato un certo sconcerto perché appunto sembra proprio una beffa per persone che sono già sfortunate e stanno già vivendo una situazione difficile, magari anche il lavoro in quelle zone in questo momento magari scarseggia. Abbiamo sentito Renza Barani, presidente di Federconsumatori Modena, che ci ha spiegato un po' quali sono le denunce, le segnalazioni che sono arrivate alla sua associazione. Le persone che si sono rivolte a noi nel momento in cui essi si recano agli sportelli di Enel per cambiare l'utenza di energia elettrica soprattutto, Enel li informa che saranno applicati dei costi per lo spostamento appunto dell'utenza, e quindi qui parliamo di oltre 85 euro. E in più le tariffe che verranno applicate a quell'utenza di energia elettrica non saranno le tariffe da residenti, ma saranno tariffe, diciamo, da seconda abitazione, quasi come se queste persone si trovassero in vacanza. Invece sono persone terremotate, lo ricordiamo. Certo, sono famiglie che hanno in questo momento uno stato di inagibilità della propria abitazione. Il problema vero che noi vorremmo, come dire, far emergere non è neanche tanto nei confronti di Enel o dei gestori, che purtroppo stanno applicando le regole che sono in vigore in questo momento. Noi vogliamo fortemente, vivacemente sollecitare l'autorità per l'energia elettrica e il gas ad emettere la delibera che era prevista nella normativa emessa dal Parlamento, dal governo, insomma, a settembre, nella quale si diceva che entro novembre dovevano appunto essere definite le normative, le tariffe, i tempi, le modalità per la fatturazione dell'energia nelle zone colpite dal sisma. Purtroppo a oggi, quindi siamo all'11 di gennaio, questa delibera non è ancora stata emessa dall'autorità. Ed è tra l'altro un punto che sottolinea anche Enel. Sentiamo allora Luigino Zuin, responsabile consumatori nord-est proprio di Enel. Innanzitutto, se noi dovessimo aver applicato la normativa in atto dal 20 di novembre, avremmo dovuto riprendere la fatturazione a tariffe normali per tutta l'area del sisma. Ad oggi noi, salvo casi eccezionali dovuti magari a qualche anomalia di sistema, abbiamo ancora la fatturazione bloccata dal 29 maggio e stiamo aspettando notizie dall'autorità. Qualora i clienti di quest'area si spostassero e andassero ad abitare in un'altra casa, sono disponibili appositi moduli presso i nostri uffici dove dichiarano lo spostamento dovuto per inagibilità dei locali e continuiamo ad applicare le tariffe residenti anche nella casa dove vanno ad abitare. Come mai allora ci sono state queste segnalazioni? ma credo che ci sia qualche malinteso e me ne dispiace. Comunque anche per lei il nodo è il fatto che sono scadute le agevolazioni per i terremotati e non sono state dall'autority riprese e rimesse in vigore. Certamente, mentre per esempio per il terremoto dell'Aquila c'è una delibera ben chiara, peraltro in discussione anche in questi giorni se mantenerla o via dicendo, che stabiliva costi diversificati per il consumo dell'energia e anche per le operazioni commerciali, oggi nell'area colpita dal sisma dell'Emilia Romagna non c'è nessun intervento legislativo dell'autorità che preveda tariffe diverse rispetto alla generalità dei clienti. Dunque proprio questo è il problema, le agevolazioni sono scadute quando invece la situazione non è assolutamente tornata alla normalità. È così Fernando Ferioli, sindaco di Finale Emilia? È assolutamente così, abbiamo questa situazione in cui sembra che dopo 7 mesi dal terremoto, un terremoto devastante che ha colpito 900.000 persone e ha avuto milioni e milioni di, anzi miliardi, si parla di quasi 13 miliardi di danni, sembra che qua tutto sia finito e noi siamo già pronti a pagare, a ripagare come, anzi di più di prima, o addirittura anche senza le agevolazioni di rateizzazioni e senza le agevolazioni di avere appunto un momento di respiro, di ossigeno per poter riprendere la vita normale, che ci vorranno anni. Insomma, voi chiedete ancora tempo, perché non assolutamente la situazione non è tornata a quella che era prima del maggio scorso. Ma assolutamente no, ma è impossibile che possa ritornare se non dopo anni, è quello lì che noi abbiamo sempre detto, dateci ossigeno, dateci il tempo e ripagheremo tutto, ma trattarci in questo modo credo che sia una mancanza totale di rispetto per persone che non hanno mai pianto, non si sono sempre messe a lavorare, a tirare sulle maniche e lavorare costantemente per cercare di ritornare come erano prima e ripagare anche tutto quello che avevano sempre pagato, che si parla di quasi 1 miliardo di tasse al mese di queste zone che pagano, quindi credo che fosse pagare sì, l'errore. Ma quando ce ne sarà di nuovo la possibilità. Ecco Ferioli, invece il caso specifico delle bollette dell'Enel, quante persone riguardano nel suo comune? È un problema sentito? Insomma, gliel'hanno parlato i suoi cittadini? Assolutamente sì, sono già venuti ieri, l'altro ieri, già alcune persone, per cui noi abbiamo questa purtroppo abbiamo 1900 unità abitative solo a Finale Emilia, ricordo su 9.000 case, noi qua 2.000 sono inagibili, per cui vuol dire per tantissime migliaia di persone, per cui noi abbiamo sicuramente quello che è la nostra opinione, è quella di avere rispetto per queste persone, stanno cercando solo di arrangiarsi, portare avanti fuori da questo tremendo terremoto, portare con dignità e rispetto questo clip, cataclisma che ci ha colpito e questa catastrofe che cercheremo sicuramente di combattere giorno per giorno, ma un minimo di attenzione noi ce l'aspettiamo. Ecco, ma lei ha cercato di sentire anche quelli dell'Enel, insomma ha cercato di venire un po' a capo per aiutare i suoi cittadini in tal senso, mi parla di 2000 case inagibili, immagino insomma che questo caso delle bollette Enel non riguardi tutte queste persone, però insomma che cosa sta facendo per aiutarli? Abbiamo già contattato appunto l'autorità, stiamo aspettando risposta dall'autorità, abbiamo già naturalmente tutti gli enti competenti sanno della situazione, noi stiamo cercando di agevolare e accelerare quella che è una situazione assurda, cioè quella di che gente che già deve affrontare un disastro del genere prenderà l'80% e non il 100%, cioè avrà tutti i problemi legati ai trasporti, ai servizi, alla mancanza appunto di supporto, e noi stiamo cercando appunto di agevolarli, questo è ovvio che noi dobbiamo farlo, la situazione che abbiamo è talmente dura e difficile che a volte ci si perde anche magari su questi dettagli che in realtà non sono dettagli, perché per una persona che ha perso tutto questo veramente diventa un affronto tremendo. E tutti e due ovviamente i nostri interlocutori, come sottolineavamo, parlavano di un periodo in cui insomma tra il governo dimissionario e le elezioni siete forse un po' trascurati nell'agenda, nei programmi che vede elettorali di queste ore, come ha trovato qualcosa su di voi, anche sulle prospettive e sui problemi che vi riguardano? Veramente in questo momento non ho neanche visto un solo programma televisivo, perché io sono 24 ore su 24 orientato a cercare di dare risposta ai cittadini e quindi no, nei programmi elettorali, dicevo, dei programmi elettorali, delle varie schieramenti. Io dei problemi trovati finora non ho sentito veramente in modo anche in maniera anche decisa e schietta una presa di posizione su quella che è la situazione. Ovvio che adesso siamo all'inizio della campagna elettorale, io mi aspetto che questo sia uno dei tanti purtroppo problemi dell'Italia, certo, però per una situazione che è quella nostra, che è di attività produttive che producono il 2% del PIL, cioè 30 miliardi di euro all'anno, ci sia anche un'attenzione dal punto di vista della ripartenza, oltre naturalmente, come dicevo prima, al fatto di avere migliaia e migliaia di persone in grosse difficoltà. Ecco, cosa chiede Ferrioli lei a chiunque dovesse uscire vincitore dalle urne? Come ho detto sempre, io dico che noi la cosa che chiediamo in assoluto è, visto che abbiamo affrontato con dignità questa situazione, il rispetto appunto di questo, sappiamo che noi per prima cosa abbiamo chiesto il lavoro, noi abbiamo chiesto di far ripartire il lavoro, per cui assolutamente sburocratizzare e velocizzare tutte quelle situazioni che devono far ripartire quello che è il lavoro, perché con quello noi possiamo saltarci veramente fuori, senza il lavoro noi non ce la faremo mai, perché è quello che ci può permettere di affrontare i prossimi 10-15 anni di grosse difficoltà che causate appunto dal terremoto del 20-29 maggio. Grazie a Fernando Ferrioli, sindaco di Finale Emilia, grazie a Valentina Furlanetto per aver realizzato questo approfondimento. Venerdì, ultima puntata della settimana di Italia in Controluce, lunedì vi ricordo l'appuntamento invece con Scuola in Controluce. Un saluto da Maria Piera Ceci.